La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Tira un venticello western sulla settimana cinematografica, quello pieno di amori e grandi spazi di Australia e quello classico, un po' crepuscolare, di Appaloosa. Benvenuti alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi. Il nostro settimanale di cinema vi porterà a conoscere quelle che sono le principali novità cinematografiche nelle nostre sale in questo fine settimana, tra le quali anche il ritorno dell'horror italiano con Imago Mortis e la presenza del cinema d'autore europeo, anzi mitteleuropeo, di Vuoti a rendere di Hans Verhaegh e d'oltreoceano dell'America Latina, del Cile, di Tony Manero, di Pablo Larraín. Parleremo anche del Trieste Film Festival, dei Golden Globe e soprattutto degli Oscar, che hanno segnato nel giro di 48 ore all'inizio di questa settimana la sconfitta di Gomorra, che è stato escluso da tutti i premi più importanti americani. Ne parleremo alla fine di questa nostra puntata, nell'ultima parte, con ospiti importanti come Piera De Tassis e Maurizio Porro. Giocheremo insieme con il nostro DVD Game, insomma spazio davvero per tutti. Allora cominciamo come sempre entrando nel clima della sala cinematografica, abbassiamo le luci e ascoltiamo il nostro audio sommario. Carpem mortis spectrum, oculos tuos. Molto bene, Gustav, molto bene. Ti cercherò, qualunque cosa accada, costi quel che costi. Dovrai essere forte, ce la farai. Non possiamo farli vincere. Non vinceranno. Dove siamo? Sei nel Chihuahua, la patria di origine della nostra grande razza. Io sono nata a Beverly Hills. Sì, ma i tuoi antenati vengono da qui. Signore e signori, ecco a voi il centro della terra. È incredibile. Giù! La temperatura si sta alzando. Quanto tempo abbiamo? 48 ore, forse anche meno. Hai paura di morire? Non ho paura. Bene, perché sarai il primo. Come avete sentito dalle clip, escono anche due film per ragazzi, Beverly Hills Chihuahua, simpatico film nel quale i microscopici cani Chihuahua la fanno da padroni, e Viaggio al centro della terra, dritto dritto, da Jules Verne con Brendan Fraser, questa volta da vedere però in 3D, quindi con le nuove tecnologie e con gli occhialini infilati nei cinema attrezzati. Per ragioni di spazio non riusciamo a proporvi approfondimenti su questi due film in questa puntata, che invece, come dicevamo, vuol partire con il western. Fra poco parleremo di Australia di Baz Luhrmann nella seconda parte del nostro programma. Ora invece un western che abbiamo definito un po' crepuscolare, forse un po' sul solco degli Spietati di Clint Eastwood, lo ricorderete. Grandi attori, Ed Harris che è anche regista, e Viggo Mortensen, fra poco li ascolterete qui nello speciale preparato dalla nostra Micaela Bellisario. New Mexico 1882, ad Appaloosa, una piccola comunità di minatori, un potente ranciero, Randall Bragg, detta legge e spadroneggia ovunque, arrivando a uccidere a sangue freddo lo sceriffo del villaggio. Terrorizzato, il consiglio comunale ingaggia due nuovi sceriffi con la fama di pacificatori, Virgin Cole e Everett Hitch. Noi rivogliamo la nostra città e siamo disposti a pagare il vostro prezzo. Cosa ne dici, Everett? È il nostro lavoro. Infatti, vero? Allora ci state? Certo. Ma a scompigliare le carte arriva in paese la signorina Alison French. La sua presenza mina subito gli equilibri dell'amicizia tra lo sceriffo Virgin Cole, che se ne innamora, e il suo vice Everett Hitch, ex soldato tutto d'un pezzo dal cuore d'oro e disposto in ogni momento a immolarsi per il suo amico. Vedo che la casa è a buon punto. Se Virgin si deciderà mai a venire ad abitarci. Di sicuro ci verrà. Sembra esserne disinteressato. Anzi, sembra essere disinteressato anche a me. Se ne sta nel suo ufficio col suo fucile. A fare lo sceriffo. Appaloosa è una storia di amicizia e di onestà. Una storia di uomini veri, dove non ci si spara alle spalle, ma ci si affronta faccia a faccia con le pistole. Frequenti rimandi agli spaghetti western di Sergio Leone, come spiega d'altra parte Ed Harris, regista e protagonista della pellicola. Yes, well, it was very intentional that the film è stato fatto apposta. Appaloosa voleva essere un omaggio al western classico. Volevo girarlo in modo semplice, poter lavorare sul paesaggio e sulle persone di quel tempo. Lo stile è stato proprio intenzionale. Hitch, sei disposto a morire anche tu? Certo che lo è. Secondo te facciamo questo mestiere perché abbiamo paura di morire? Divertente ruolo del cattivo interpretato da un improbabile Jeremy Irons. Apparentemente ironica la presenza dell'unica figura femminile del film, interpretata da Renée Zellweger, vedova sopravvissuta e interessata soprattutto a essere protetta dal potente del momento. Ne esce fuori alla fine un film abbastanza misogino, va detto, ma Ed Harris parla piuttosto di una visione spregiudicata delle donne. The script that Robert and I wrote was based on a novel by... Il film è tratto da un libro che porta lo stesso titolo. L'ironia e il sense of humor nelle battute vengono da lì. Per me era una grande occasione di dipingere la donna. L'ho fatto nel modo più onesto. Non sappiamo quasi niente del suo passato, ma non volevo che fosse la tipica vedova nera. È una sopravvissuta e fa quello che deve fare. Intensa la recitazione di Viggo Mortensen in Stato di Grazia, tornato a lavorare insieme a Ed Harris dopo A History of Violence. Così parla della loro collaborazione. Well, we had a good time working together on History of Violence. Siamo stati benissimo lavorando assieme per A History of Violence. Il lavoro è andato bene, ma ci siamo anche divertiti, anche se stavamo recitando come nemici. Sapevo che sarebbe stato interessante, che avrebbe reagito alla mia recitazione. Fra i film di questa settimana non è tanto Appalusa quanto probabilmente Australia poter scalzare dalla vetta della classifica Sette anime di Muccino, che è partito veramente con il turbo. Ci racconta tutto sul box office la nostra Daniela Fagion. Passata la festa, gabbato il cinepanettone, scalzato dal podio. Al quinto posto debutta la commedia Un matrimonio all'inglese, che in un weekend fa 610.000 euro. È difficile nuotare nel fossato. Tutto fumo e niente arrosto, tesoro. Altri 680.000 euro invece per Natalia Rio, ormai oltre i 24.200.000 complessivi. In top 10 è quarto, subito dietro al suo concorrente numero 1, Madagascar 2, che supera di nuovo il milione di incassi nel weekend e in totale resta sulla scia di De Sica e compagnia, fondando il tetto dei 24 milioni. Debutto sul velluto poi per Jim Carrey e il suo Yes Man, che in tre giorni incassa più di 2 milioni e mezzo. Tu dici no alla vita, quindi non stai vivendo. E sono quasi 4 i milioni che segnano il ritorno di Gabriele Muccino nelle sale italiane. Il suo Sette anime con Will Smith conquista subito la vetta del botteghino. In 7 giorni Dio creò il mondo. In 7 secondi io ho distrutto il mio. Seven Pounds, ovvero il film di Muccino, titolo originale, in America ha già raggiunto i 67 milioni. America che ha premiato il nuovo film di Clint Eastwood, Gran Torino, primo posto nella graduatoria del box office a stelle e strisce, con quasi 40 milioni di dollari dopo il primo fine settimana di programmazione. La rosa purpurea. Sulle note della celebre Over the Rainbow, cantata da una giovanissima Judy Garland nel Mago di Oz, si apre la seconda parte della Rosa Purpurea. Note immortali che ci introducono al film della settimana, ma certo anche a uno dei più attesi della stagione, quell'Australia di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman, protagonisti di una storia di grande respiro, di quelle capaci di rimanere nella memoria degli spettatori. Over the Rainbow e il Mago di Oz c'entrano, sentite come. Dreams that you dare to dream really do. Australia, 1939. Lady Sarah Ashley, interpretata da Nicole Kidman, aveva abbandonato l'aristocratica Londra convinta che il marito, non molto amato, la stesse tradendo, appunto, in Australia. Lì era andato per vendere la proprietà di famiglia, Faraway Downs, un ranch gestito da mandriani aborigeni guidati dall'osco Fletcher in combutta con il re del bestiame, King Carrey. E se è vero il detto «l'occhio del padrone ingrassa il cavallo», non c'è da stupirsi se le vacche di due padroni lontani almeno due mari fossero così magre. «E allora vendiamo il ranch», si era detto Lord Ashley, ed era partito, insospettendo però la graziosa e leggiadra mogliettina che, non avendo di lui notizie, lo aveva seguito di un paio di settimane. Ad accoglierla negli aridi e inospitali territori del nord australiano, Sara trova un rude nerboruto mandriano, Drover, che è il volto di Hugh Jackman, collocato agli antipodi del suo mondo di pizzi e merletti. Benvenuta in Australia. Starebbe molto più comoda con qualcosa addosso, diciamo, di meno soffocante. Tenga gli occhi fissi sulla strada. Arrivata al ranch, Sara scopre il dramma. Suo marito è stato ucciso da King George, uno stregone aborigeno, dice l'ineffabile Fletcher, che è lì ad attenderla e che preme affinché a questo punto il ranch sia venduto senza indugi e a un prezzo modico. Ma Sara nasa che l'aria è viziata e, credendo a un bambino mezzo sangue, Nalla, scopre le angherie cui gli aborigeni che lavorano nella fattoria sono sottoposti da Fletcher e dai suoi scagnozzi. L'unico di cui in fondo si fida è proprio il grezzo ma attraente Drover. Posso fare quello che fa un uomo. Non dirà sul serio? Il cavallo! Una cosa si fa interessante. Sara ama i cavalli, li monta a perfezione, così con Drover, un paio di mandriani improvvisati, un ubriacone e un bambino, parte per un lungo viaggio. Obiettivo: attraversare i deserti e arrivare al mare, nella città di Darwin, con 1500 capi di bestiame, vendere la carne all'esercito e con quei soldi risollevare le sorti di Faraway Down. Ma il percorso sarà meno piatto delle aride pianure australiane. Signor Drover, c'è una sola tenda. È che non siamo abituati a... A una donna? A degli ospiti. Ad avere degli ospiti, era questo quello che stavo per dire. Nel viaggio Sara riscopre se stessa, le cose che forse ha sempre desiderato, e un uomo con l'anima molto più gentile dei suoi modi e dei suoi vestiti. Un uomo che ha imparato a diffidare dal mondo degli arricchiti australiani. Loro stanno alla larga da me e io sto alla larga da loro. Così funziona. Anche se è così, non è detto che debba essere così. Ma come nelle migliori tradizioni da Colossal, la guerra avvicina il suo fronte, i giapponesi si fanno sempre più minacciosi e l'Australia sta per essere devastata dai bombardamenti. Per la piccola e improvvisata famiglia, composta da Sara, Drover e dal piccolo Nalla, è di nuovo tempo di dividersi. Wasted and wounded, no hate what the moon did, the God will have paid for. Ma che bel film questo nuovo Colossal di Baz Luhrmann, australiano, che ha voluto accanto a sé il meglio del cinema del suo paese. La splendida Nicole Kidman, per la quale questo film segna un rilancio dopo qualche pellicola certo non azzeccata. L'affascinante Hugh Jackman, ma inizialmente doveva esserci un altro australiano, Russell Crowe, che poi aveva rinunciato. E soprattutto lo sfondo del suo vasto, selvatico e magico continente. Un film da 130 milioni di dollari, pieno di vicissitudini e difficoltà, dall'abbandono di Crowe, come dicevamo, al cambio di finale dopo che i test screening col pubblico avevano dato esito non proprio felice. Ma Baz Luhrmann non si è disunito ed è riuscito forse nell'impresa più difficile, mantenere l'impronta del suo cinema rutilante, pieno di colore e di musica, chi ha visto Moulin Rouge o Romeo più Juliet sa a cosa ci riferiamo, in un Colossal epico e ad ampio respiro, alla Via col Vento, con i suoi spazi sconfinati, l'amore, la guerra. Il cinema di Luhrmann aveva sempre vissuto in ambienti chiusi, con un apporto decisivo della scenografia, che questa volta era en plein air come mai prima d'ora. E allora Luhrmann ha lasciato fare alla natura, ai canyon, ai fiumi, ai deserti, e ha ricamato con la musica, meglio, con una canzone. E qui sveliamo l'arcano, Over the Rainbow, le cui note escono ora dall'armonica del vecchio ubriacone, ora dalla voce del piccolo Nalla. E proprio il mago di Oz segna il primo incontro del bambino con un cinema, ed è la frase mitica di Dorothy, nessun posto è bello come casa mia, che sussurrato dalle labbra di Hugh Jackman, completa il quadro della metafora cinematografica e cinefila di Baz Luhrmann, perché Oz non era altro che un nomignolo che indicava l'Australia, e quella canzone, la strada di casa alla giovane Dorothy. What they can do for me. Abbiamo parlato di Australia, di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman nelle sale cinematografiche da questo fine settimana. A questo punto noi cominciamo invece a giocare con il nostro DVD game, apriamo una finestra sul gioco perché questa settimana abbiamo un mito del cinema in concorso, in palio per i nostri ascoltatori. Allora vi ricordo subito l'indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea, @radio24.it, e come sempre dovrete indovinare almeno una delle tracce di tre diversi film che vi proponiamo in questa puntata. Ascoltiamo. E così volevi dare l'appartamento a un vecchio compagno d'armi. Oh, è arrivata Bobby. Perché non mi hai detto che era una ragazza? Signora Scott, lei è gelosa. Certo che lo sono. Se penso a tutte le persone che hai conosciuto in 2 anni, con le quali hai trascorso più tempo che abbiamo con me... Abbiamo tutta una vita per rifarci. Questa è la prima di 3 tracce di 3 film diversi che appartengono però alla stessa grande attrice. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta. E dai grandi spazi dell'Australia alla Mitteleuropa, ma sempre d'amore si tratta, in un film che riporta nelle sale cinematografiche italiane un premio Oscar come Jan Sverak, che una decina d'anni fa più o meno vinse il massimo riconoscimento cinematografico mondiale con un film che si intitolava Kolya e che raccontava la storia di un violoncellista divorziato alle prese con il ritrovato rapporto con un bambino, suo figlio, bambino di 5 anni. Ebbene, anche questa volta dicevamo l'amore c'entra, ma è un amore da terza età ed è un amore forse ancora più interessante cinematograficamente anche per questo motivo. Vuoti a rendere, visto per noi, da Chiara Pizzimenti. Benvenuti nella vita di Josef. Eccolo qui il nostro protagonista, 65 anni, professore praghese in grande crisi, ma capace di risollevarsi. Io qui non sono più felice, dice alla preside dell'istituto dove insegna, dopo l'ennesima giornata no con un gruppo di studenti strafottenti e un po' ignoranti. Addio alla cattedra allora, senza rimpianti. Josef è certo di avere ancora molto da dare alla società ed è aperto a tutte le ipotesi. Subito va alla ricerca di un nuovo lavoro. Il primo tentativo fallisce. Fare il corriere in bicicletta gli procura una caviglia rotta. Il secondo invece è perfetto. Un impiego part-time al bancone della resa delle bottiglie in un supermercato. Da qui il titolo Vuoti a rendere, che si adatta perfettamente anche all'universo di persone oltre i 60 che circonda Josef. Prima fra tutte la moglie, donna intelligente e un po' rassegnata a stare con un marito a cui ormai non interessa più. È quella che vive con lui da 40 anni e che stira guardando la TV, mentre Josef sogna trentenni sexy. Niente di negativo lo tocca. Il suo modo impiccione ma gentile lo fa amare da tutti al supermercato e Josef diventa il deus ex machina della gioia altrui, quella del collega e quella della figlia, per finire con la moglie e la propria, anche quando il market compra una macchina per smistare le bottiglie vuote. Mam ploche no ipoteche. A fantasie po' svem strizzi. La terza età va alla ricerca della felicità. Jan Sverak dirige suo padre Zdenek come in Kolya, film premiato con l'Oscar, e ci racconta di un anziano ottimista, vitale e reale, in una Praga bellissima, allo spirito delle vecchiette di pranzo di Ferragosto e un po' quello della protagonista della Felicità porta fortuna, in un film che ha il grande merito di raccontare una vecchiaia vera con le sue malinconie e le sue medicine, ma anche i suoi slanci. Nessuna lista delle cose da fare prima di morire, come in Non è mai troppo tardi, con la coppia Jack Nicholson Morgan Freeman, ma giorni da vivere cercando di essere felici, come dice il poeta, per un po' d'amore in capo al mondo andrei, e Josef lo fa. Questo per quel che concerne Vuoti a rendere, il film di Jan Sverak, mirabilmente inquadrato da Chiara Pizzimenti, che ci dà lo spunto per parlare di un festival che si è aperto proprio giovedì scorso. Si tratta di Alpe Adria, lo storico festival triestino tutto dedicato al cinema della Mitteleuropa, che tra l'altro negli anni passati aveva un po' scoperto proprio Jan Sverak mostrando le sue prime opere. Anna Maria Percavassi, direttrice del Trieste Film Festival, spiega quali sono, secondo lei, i punti di forza di Vuoti a rendere. Tutta la loro capacità ironica di sorridere con quella loro finezza che è solo loro, rimanendo assolutamente legati alle loro tradizioni cinematografiche, alle loro caratteristiche, però calandoli nei problemi della società di oggi, che sono i problemi di qua, gli anziani, la mancanza del lavoro, le difficoltà del quotidiano. E il Trieste Film Festival è giunto alla 20ª edizione, un compleanno importante che viene celebrato proprio in questi giorni, fino a metà della prossima settimana, con diversi eventi speciali, come 3 masterclass con altrettanti grandi registi dell'Est, i polacchi Jerzy Sztur e Andrzej Żulanski e l'ungherese Marta Mezaros, e un centenario assai particolare che ha per protagonista niente meno che il grande scrittore irlandese che visse parecchio tempo a Trieste, James Joyce. Joyce. Ancora Anna Maria Percavassi. Joyce, insieme a un gruppo di imprenditori triestini, quando abitava a Trieste all'inizio del secolo scorso, si innamorò del cinema che vedeva a Trieste, ce n'erano tanti, era la città che aveva più cinema in Italia, e decise di convincere alcuni imprenditori triestini del cinema ad andare ad aprire una sala stabile a Dublino, perché in Irlanda c'erano solo i cinema viaggianti. L'evento si svolse nel 1909 e quindi a 100 anni dell'apertura della prima sala a Dublino all'opera dei triestini, che poi diede l'avvio al fiorire di sale in Irlanda, è partito la voglia, con tutti i joyciani che abbiamo poi qua a Trieste, che non ti puoi immaginare, di andare ad indagare quanto al cinema di quegli anni ha influito sul linguaggio di Joyce e quanto racconti di Joyce, di cui non si finisce mai di avere testimonianze, della cui modernità, dico, no? Ha influito alcuni anche grandi registi, da Huston, Rossellini. Grazie ad Anna Maria Percavassi, direttrice del Trieste Film Festival, fino al 22 gennaio. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, ci sono ancora un paio di film da raccontarvi fra quelli in sala in questo fine settimana. Segnali di vita dall'horror italiano, potremmo intitolare questa parte del programma, perché arriva nelle sale Imago Mortis, film che segna l'opera prima per un lungometraggio per Stefano Bessoni. Sta per arrivare, o quantomeno siamo ormai in fase post-produttiva, anche il nuovo film di Dario Argento, Giallo. Si dice che sia proprio un ritorno al giallo all'italiana, interpretato tra l'altro da due attori di livello internazionale come Adrien Brody ed Emmanuel Sagné, così come in questo Imago Mortis di Stefano Bessoni c'è Geraldine Chaplin. Insomma, un horror italiano che ha trovato o ritrovato anche la forza attrattiva rispetto ai grandi nomi del cinema internazionale. Speriamo che sia l'inizio di una riscossa di un genere forse troppo presto abbandonato dal cinema italiano, un genere che è andato a germinare da altre parti. Guardate la Spagna, che cosa ha combinato in questo tipo di cinema, e che forse invece ci siano appunto i prodromi di una riscossa italiana. Lo staremo a vedere. Nel frattempo Imago Mortis ce lo racconta Barbara Righini. Il richiamo è all'horror ultima generazione spagnola. In Imago Mortis l'ispirazione a Guillermo del Toro con La spina del diavolo o Il labirinto del fauno è chiara, ma anche un certo Alejandro Amenábar è facile da rintracciare. Stefano Bessoni, regista italiano esordiente, firma un film che sembra tracciare una strada nuova per il cinema di genere nel nostro paese. Da tempo in Italia non si guardava all'occulto. Tutto ambientato dentro un vecchio e minaccioso istituto, Imago Mortis racconta di un giovane studente di cinema che si imbatte in strane apparizioni. Bruno, questo è il nome del protagonista, è un ragazzo strano. Dopo aver perso i genitori in un incidente d'auto, tende ad isolarsi dagli altri studenti. L'unica persona di cui si fida è una ragazza di nome Arianna, di cui è innamorato e con la quale ha grande confidenza. Sì signore, capitano Calavera. Non capisco perché devi sempre chiamarmi Calavera. Sei così pallido. Le Calaveras sono dei teschi di marzapane che danno ai bambini a Città del Messico nel giorno dei morti. È un complimento. Ma non è la morte dei genitori a rendere Bruno inquieto, sono quelle visioni. I ragazzi della scuola di cinema vivono tutti assieme all'interno dell'enorme palazzo fatto di corridoi interminabili, sotterranei, grandi finestre. Un ambiente claustrofobico che sembra nascondere qualche cosa di oscuro. A Bruno capita di vedere un ragazzo che non esiste, forse un fantasma. Presto scoprirà che quelle visioni hanno a che fare con eventi tragici avvenuti all'interno di quelle mura anni prima. Le persone coinvolte sono proprio i professori e tutta la storia ha a che fare con uno strano attrezzo ritrovato proprio da Bruno. Quando la mia società editrice stampò il libro, non sapevo cosa fosse un tanatoscopio e a cosa servisse. Qualche tempo dopo trovai alcuni riferimenti in un antico manoscritto e, rendendomi conto della sua importanza, decisi di pubblicare un libro proprio sul tanatoscopio, sui suoi poteri occulti e naturalmente sul suo inventore. E l'inventore immaginario è un alchimista vissuto nel XVII secolo, un uomo che prima dell'avvento della fotografia cercò di catturare le immagini e per farlo sacrificò molte vite. Fra i protagonisti Fortuna di Stefano Bessoni c'è anche Geraldine Chaplin che regala solidità all'opera. Fra i meriti anche una certa inquietudine che si respira, mentre gli eccessivi rimandi ad altri film di genere possono a volte infastidire come una certa prevedibilità. Abbiamo contattato telefonicamente Stefano Bessoni, ecco cosa ci ha raccontato a proposito del tanatoscopio. In realtà non è che mi sono inventato poi tantissimo, ho semplicemente unito diversi stimoli reali che sono alcuni riconducibili al 1600 e in particolare agli studi di un personaggio realmente esistito, Athanas Kircher, che fece studi sulle proprietà delle luci e delle ombre, sulle proiezioni di immagini, e poi con studi e trattati sul fenomeno della persistenza retinica scoperto nel 700 da un abate francese, ma poi viene approfondito nel 900, dove alcuni scienziati riuscirono addirittura ad isolare delle immagini impresse nella retina dei topi di laboratorio. Ed eccoci pronti ad ascoltare il secondo film misterioso di questa settimana, ve lo ricordiamo, una stessa grande attrice per i tre film con i quali giochiamo nel nostro DVD game. Ascoltiamo. Yugi! Salve Joyce! Stella, quelle fotografie che mi facesti hanno spopolato. Ne esce una sul giornale domani e le altre dice che le pubblicheranno sulle riviste. Un mare di grazie. Ma ti pare piccola, è giusto che il mondo sappia che sei piena di risorse. Ah, permetti che ti presenti la mia figliola Barbara, questa è Joyce Mannering. Tanto piacere. Cara, suo papà è stato divino con me, tanto che a volte viene anche a me di chiamarlo papà. Esagerate, per un paio di foto scattate sul suo terrazzo. Stella, è vero che Victor McFarland viene in questo albergo? L'ho sentito dire dal parrucchiere. Certo, arriverà a momenti, lo vuoi conoscere? Ma chi non lo vorrebbe conoscere, un milionario che non è neanche racchio? Avete capito di che film si tratta? Quale attrice lo interpreta? La Rosa Purpurea, @radio24.it. Più tardi, un'altra traccia. Avanti con un altro film, vincitore del Torino Film Festival, era stato annunciato in uscita a fine novembre, poi è slittato in questo periodo pre-Oscar, ma anche Tony Manero di Pablo Larraín non è entrato nei 9 film che si contenderanno la statuetta del miglior film straniero, sorte toccata anche al nostro Gomorra. Di questo tra l'altro parleremo fra poco nella quarta parte della Rosa Purpurea. Andiamo a capire meglio che cosa ci racconta questo Tony Manero. Okay. Nice to meet you. You know what you are? I'll tell you what you are. You are a very good answer. Siamo nel Cile degli anni 70, quello della feroce dittatura del generale Pinochet. Raúl Peralta è un uomo di mezza età, opportunista e senza valori. Ha un solo mito, una vera ossessione, essere Tony Manero, il ballerino impersonato da John Travolta nella Febbre del sabato sera, il film che in quei giorni impazza in tutto il mondo. Nel retro di un bar, su un'improvvisata pista da ballo, Raúl passa le giornate perfezionando i passi copiati dal film, che conosce a memoria. Raul è un uomo vuoto, cattivo e violento. Non esita a rubare, a picchiare, ad uccidere persino, se questo può agevolarlo nel raggiungimento del proprio obiettivo, vincere un concorso televisivo per sosia di Tony Manero. E un giorno arriva la chiamata. Come sta? Muy buenas tardes. Qual è il tuo nome? Raul Peralta Paredes. Oh, in che trabaja? A esto. A bailar? Ah, esto sì, mismo. Ya. Bueno, pues muy bien. Con fuerza, con ánimo, ¿eh? Él... dice, io sono Tony Manero. Presentato alla Kenzen a Cannes e come dicevamo ora a Torino, Tony Manero è l'opera seconda del 32enne regista cileno Pablo Larraín, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Grazie Pablo per aver accettato il nostro invito. Volevo chiederti prima di tutto perché la scelta del personaggio di Tony Manero per raccontare il disastro culturale e sociale del Cile di Pinochet. Perché è un personaggio che possa fare molta metafora della situazione del nostro paese in questi anni, negli anni 70, no? Questo personaggio è una metafora della situazione del paese, no? È un paese che sta abituato a quitar la vita di persone innocenti, è un paese che sta importando fenomeni culturali degli Stati Uniti che sta in contra della nostra propria cultura. Il tuo personaggio, Raúl Peralta, è un personaggio di una cattiveria interiore. Come spieghi questa cattiveria? Il personaggio sta costruito non desde la cattiveria, non desde il mal, sta costruito desde il vacío. Non è una sofisticazione ideologica, una sofisticazione della maldad, no? es sencillamente un personaje que intenta sobrevivir y que intenta ganar un concurso, porque cree que ganando ese concurso su futuro va a estar mejor, y no es así, gane o no gane, da igual, su futuro va a estar igual, ¿no? Es también el anhelo de una nación que cree que importando un fenómeno cultural o un sistema cultural foráneo vamos a hacer que todo sea mejor. Però non è così, non è facile, questo è una situazione veramente violenta in cui il personaggio sta solamente operando per sua intuizione. Ecco, il regime di Pinochet nel tuo film rimane sempre un po' sullo sfondo. Ecco, perché hai fatto questa scelta di non far entrare troppo la storia con la S maiuscola dentro il tuo film e l'hai fatta restare un po' sullo sfondo? Che non è necessario mostrare tanti, no? Questo è parte della cultura americana, film che tutto tiene che essere troppo esplicato, no? Questo film non pretende mostrare tutto, solo se tu vedi un frammento, una parte di algo, e lo spettatore deve completare il resto. Ed esauriti i film in sala, siamo arrivati alla nostra rubrica Trailer USA, tutte le anticipazioni sui film d'oltreoceano che vedremo nei prossimi mesi. In questa puntata parleremo di spie, ottime e brillanti spie, e per farlo ritorna con noi Micaela Bellisario, che in apertura di programma ci aveva raccontato a Palusa. Allora Micaela, il film della settimana è, come dicevamo, Duplicity, in uscita il 20 marzo negli Stati Uniti. Ne parliamo soprattutto perché vede il ritorno sul grande schermo di un'attrice che negli ultimi anni si era un po' defilata per motivi personali, Julia Roberts. Dopo Ocean's 12 nel 2004, come saprete, aveva messo al mondo due gemelli ritirandosi dal set, poi era comunque tornata con lo splendido La guerra di Charlie Wilson e con Un segreto tra noi. Ora Julia Roberts torna con un thriller adrenalinico, un vero e proprio action movie. Ma sì, Franco, allora la storia è abbastanza déjà vu, niente di nuovo, diciamo così, però è intrigante, anche perché gli attori, appunto, come dicevi, sono Clive Owen e Julia Roberts. Nel film sono due ex spie, lei della CIA, lui uno 007 britannico, lei si chiama Claire Stanwyck e lui Ray Koval. Si ritrovano anni dopo al servizio di due aziende private rivali. La loro missione è identica. Tutte e due devono ottenere la formula di un prodotto. Julia Roberts, come sentirete adesso nel passo del trailer, è molto agguerrita. The competition will do anything to get their hands on this. Guess who they like for director of Intel Operations? A intralciare questa guerra in un crescendo adrenalinico è però un fattore assolutamente imprevisto, e cioè l'attrazione fatale che scoppia tra i due protagonisti, come sentirete adesso. If I told you I loved you, would it make any difference? If you told me, if I believed you. Ovviamente Clive Owen e Julia Roberts decidono di unire le loro forze invece di farsi ancora guerra per compiere il colpo del secolo, ovvero impadronirsi di una formula da 40 milioni di dollari. Vi facciamo sentire proprio il gentleman agreement, l'accordo che fanno i due. You on one side, me on the other, it's perfect. You know what I think? I think you like the idea. Now all we have to do is find that product. We get there first, we'll make a fortune. Bingo. Bene, chissà che la nostra Julia Roberts non torni ancora a essere la regina del botteghino anche con questo film. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana, e un saluto anche agli ascoltatori, naturalmente. La rosa purpurea. Ed eccoci alla quarta parte della rosa purpurea. Parliamo di premi e di America prima di affrontare l'area dedicata ai DVD. Settimana decisiva e sfortunata, come saprete, per Gomorra, che nel giro di 48 ore ha visto svanire i Golden Globe e gli Oscar. Cominciamo proprio da qui. Martedì sera l'Academy Award ha ristretto a 9 titoli il novero dei candidati all'Oscar, e Gomorra, con grande sorpresa di tutti davvero, non c'era. Superato da film come il lanciatissimo Walzer con Bashir, vincitore già del Golden Globe poche ore prima, sentiremo tra poco, ma anche del turco Tre Scimmie, dal francese La Classe, dalla banda Bader Meinhof tedesca e altri film messicani, canadesi. Tutti meglio di Gomorra? Si può gridare allo scandalo o al torto subito? O era un film forse troppo difficile per i palati americani? Abbiamo raccolto il commento della direttrice di Chuck, Piera De Tassis. Non solo per il cinema italiano, ma anche per tutti i bravi professionisti coinvolti. Era vero, è una notizia brutta e anche molto sorprendente. un po' mi aveva insospettito di una non vittoria ai Golden Globes, anche se ero sicura della nomination. Credo che a questo punto la vittoria, immagino, andrà ad Walter con Bashir, visto che è così anche di stretta attualità il tema. Però davvero sono enormemente dispiaciuta, perché credo che sia un'occasione non solo persa, ma anche non compresa, evidentemente, per un grande film. Ma come dicevamo, la settimana era cominciata già male con i Golden Globe, assegnati quando da noi era lunedì mattina, molto presto, e dominati da The Millionaire, 4 premi pesanti per il film di Danny Boyle, ancora nelle sale italiane, quindi andate a vederlo se non l'avete visto, fra cui miglior film, regia e sceneggiatura. L'altra dominatrice dei Golden Globe è stata Kate Winslet, miglior attrice protagonista per Revolutionary Road e non protagonista per The Reader, davvero una accoppiata straordinaria. Spiccano poi i premi a Woody Allen per la miglior commedia, Vicky Cristina Barcelona e a Mickey Rourke per l'interpretazione di The Wrestler. Ma aguzzate il vostro inglese e riviviamo insieme la notte dei Golden Globe in questo montaggio originale. Live from the Starfield International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel. Welcome to the 66th annual Golden Globe Awards. And the Golden Globe goes to Kate Winslet, The Reader. And the Golden Globe goes to Kate Winslet. Okay. I'm so sorry. Anne, Meryl, Kristen. Oh, God, who's the other one? Oh, Angelina. And the Golden Globe goes to Bruce Springsteen, the wrestler. This is the only time I'm going to be in competition with Clint Eastwood. I know that for sure. And the Golden Globe goes to Heath Ledger, The Dark Knight. And the Golden Globe goes to Waltz with Bashir, Israel. I want to dedicate this prize, as we promised to do, to the 8 beautiful production babies who were born in our tiny studio in Tel Aviv during the making of Waltz with Bashir, 4 years. And I hope one day when they grow up, they watch this film together. And the Golden Globe goes to Mickey Rourke. And the Golden Globe goes to Slumdog Millionaire. Queste quindi le suggestioni dalla notte dei Golden Globe, ma proviamo a tuffarci già in atmosfera Oscar. Cosa possono insegnarci questi Golden Globe in vista degli Oscar? Quanti di questi premi saranno confermati nella notte delle stelle? Quanti invece potranno cambiare? Lo abbiamo chiesto al critico del Corriere della Sera, Maurizio Porro, cominciando a parlare di, appunto, The Millionaire. 4 Golden Globe come film drammatico, che speranze per l'Oscar? Questo Millionaire è un film, appunto, che mi è piaciuto ovunque, anche perché proprio ha una presa di posizione originale nei confronti della civiltà multietnica, diciamo. Parla di un fenomeno televisivo, e anche questa è una cosa omologante. E poi soprattutto è un film fatto con due marce, una marcia neorealistica e una marcia invece più di fiction, più fiabesca. Non è l'unico a essere in lizza. Io penso che, per esempio, Milk di Gus Van Sant potrebbe contendergli un po' di Oscar in futuro. E la coppia Mickey Rourke-Kate Winslet potrebbe riproporsi anche nella Notte delle Stelle? Perché Kate Winslet è una specie di trionfo dopo dopo il successo di Titanic e di altri film, mentre Mickey Rourke proprio si vede l'anno suo, perché ha vinto Venezia, ha vinto moralmente dappertutto. A mio parere c'erano forse dei nomi più meritevoli, Josh Brolin che fa la parte di Bush nel film di Stone, credo che sia difficile non prenderlo in considerazione, e lo stesso per Sean Penn nel film che abbiamo detto prima di Gus Van Sant, Milk. E dai premi degli altri ai nostri, quelli della Rosa Purpurea, terza traccia del DVD Game di questa settimana. Oh, sono mortificata, caro, ma è importante stasera, sta bene Bizzi? Sì, sta bene, sono io che sto male. Miss Mississippi ce l'ha la fuoriserie? Sicuro che ce l'ha. Andata e ritorno? Andata e ritorno cosa? Lo scompartimento riservato. Che film è? Quale grande attrice lo interpretò come gli altri due che vi abbiamo fatto ascoltare prima? La Rosa Purpurea, @radio24.it se avete la risposta e volete vincere uno di questi DVD. E quando si parla di DVD, rullo di tamburi perché è arrivato il momento del nostro Claudio Pofi che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti. Allora, 3 DVD da recensire, come sempre, un quesito da svelare, quello della scorsa settimana, sentiamone una traccia. Ti sconfiggerò, lurida bestia rombante! Ma sei matto? Non puoi infilzare il mio autobus! Torna subito qui, maniaco in calzamaglia! Era come d'incanto il divertente film sulla strana vita di una principessa da fiaba caduta su questo nostro ruvido pianeta. Hanno indovinato per primi e quindi vinto Giovanni Cussino, che ancora non ci ha comunicato la sua città tirata d'orecchie, perché poi a un certo punto daremo il premio a qualcun altro, ed Ettore Costa di Roma. Per loro una doppia sorpresa, Claudio, perché il film del quesito era uno, ma i DVD che arriveranno saranno 2, Come d'incanto e Mary Poppins in uno splendido cofanetto Disney. Claudio. Sì, le opere erano già state precedentemente distribuite, sono entrambe splendide, soprattutto Come d'incanto, naturalmente, perché insomma l'opera è recentissima, addirittura per Come d'incanto Disney ha pensato bene di rendere disponibile anche la versione Blu-ray in alta definizione. Andiamo allora a parlare di un'altra opera per ragazzi, un film live action che racconta di un affetto speciale fra una volpe e una bambina. Ascoltiamo la clip. Fino all'ultimo si era fidata ciecamente di me. Forse è per questo che le volpi scappano sempre quando ci vedono. Sanno che tra noi non è possibile un'amicizia senza fraintendimenti. Ma tu perché quel giorno sei andata via? Perché mi ero resa conto che non era sottomettendola che l'avrei legata a me. Titolo Lucky Red, per questa storia realizzata dai creatori della Marcia dei Pinguini, la volpe e la bambina, al film di Luc Jacquet, racconta appunto questa fiaba straordinaria, questo incontro meraviglioso tra una bambina e una volpe che approcciano la propria amicizia, all'inizio con difficoltà, e poi nascerà questo sentimento straordinario tra questo animale misterioso e questa adolescente. L'opera è disponibile anche in una special edition a 2 dischi. Il primo disco contiene il film con il trailer, il secondo disco numerosi approfondimenti sulla realizzazione. Tra l'altro la voce narrante della traccia in italiano è di Ambrangiolini e c'è un approfondimento anche su quello che è stato insomma il suo lavoro nel calarsi all'interno di questo bellissimo racconto. E andiamo invece a un film decisamente per adulti, anzi vietato ai minori di 14 anni come si faceva una volta, ma un film molto interessante che ci racconta ancora una volta lo sfondo della Cina contemporanea, Shanghai Baby. Ascoltiamo la clip. Ho un sogno. Un giorno, quando sarò tornata a Shanghai, mi innalzerò nel cielo della mia città come un fragoroso e sfavillante fuoco d'artificio. È la prima volta in vita mia che mi allontano dalla Cina. E sarei ancora laggiù a finire il mio primo romanzo se non sentissi che la chiave dell'ultimo capitolo è qui da qualche parte. A Berlino. Il titolo di Delta Pictures ci racconta la storia di Coco, questa giovane scrittrice cinese che ha voglia di mordere la vita e alla ricerca del capitolo conclusivo del suo romanzo si innamora di due uomini assolutamente differenti tra di loro, un artista che vive e lavora a Shanghai e un professionista in Germania. Il racconto della vita, della passione di questa bellissima donna. L'opera in DVD è di eccellente qualità, non abbiamo assolutamente nulla da eccepire, se non il fatto che la traccia originale è in lingua inglese, la lingua che ci aspettavamo in realtà parlata è quantomeno un misto tra inglese e cinese, in realtà i personaggi cinesi parlano in lingua inglese, purtroppo. Segnalo come extra la presenza unicamente del trailer e di una galleria fotografica. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea per raccontarci le ultime novità in DVD. A presto, un saluto. E come sempre con i DVD si chiude la Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema che tornerà sabato e domenica prossimi, sabato alle 18, domenica alle 9 del mattino. Vi ricordo, sarà ancora una volta una settimana importante di avvicinamento agli Oscar con l'uscita di un film come Milk, la grande interpretazione che potrebbe valere la statuetta a Sean Penn, ma anche con l'uscita di un film italiano molto atteso e che potrà arrivare in alto nelle classifiche come Italians di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.